You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, dilli. Che cavolo aspettiamo a mangiare? Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto, benvenuti ancora una volta a questo appuntamento di Radio 24 per raccontare questa Italia che cambia anche grazie alla presenza di persone che hanno radici altrove. Questa sera parliamo di sport perché il rapporto fra le seconde generazioni in particolare e lo sport è molto intenso e c'è un libro che ce lo racconta bene, al di là di Mario Balotelli, ci racconta anche le piccole realtà che hanno a che fare con lo sport e con le persone di origine straniera oppure nati in Italia da genitori stranieri negli ultimi anni, ed è Campioni d'Italia per l'editore Sinnos Editore. È un libro uscito poco tempo fa che potete trovare in libreria. Abbiamo il piacere questa sera di avere due degli autori come ospiti, Mohamed Taimoun. Buonasera. Ciao, grazie per essere con noi e grazie anche e buonasera a Isaac Tesfai. Buonasera a voi. Insieme a voi anche Mauro Valeri ha scritto questo libro. Mohamed è un ricercatore, un mediatore culturale, fondatore anche della rete G2 Seconde Generazioni. Isaac, anche lui fa parte di questa rete, è giornalista. Mauro Valeri lo conosciamo perché tempo fa l'avevamo citato, ha diretto l'Osservatorio Nazionale sulla Xenofobia dal 92 al 96 e dal 2005 è responsabile dell'Osservatorio sul razzismo e antirazzismo nel calcio in particolare. Ma questo libro non parla solo di calcio, no Mohamed? Esatto, parla anche di la questione annosa, insomma, della cittadinanza e della riforma della legge della concessione della cittadinanza in Italia. Quindi c'è una parte più legislativa, c'è una parte più legata alle storie dei campioni. Io ho curato sì la prima parte del libro, che è la parte legislativa. C'è un filo conduttore che collega la questione della cittadinanza, della legge, con la vita poi delle persone che sono magari o nate in Italia o cresciute qua in Italia, e che non potendo insomma avere per vari motivi la cittadinanza italiana si ritrovano a fare quello che fanno, lo sport, in condizioni particolari. Molti svantaggiati, molti rimangono schiacciati da questo svantaggio, diciamo, di non avere la cittadinanza italiana, altri invece riescono a farcela comunque con molta forza di volontà e anche un po' di fortuna a fare quello che voglio fare, per cui sono nate, insomma, sport ad alti livelli. In realtà in Italia, diciamo, sulla cittadinanza e sulla legislazione per quanto riguarda gli stranieri si è peggiorato più che migliorare. Sincronizziamo i cuori sullo stesso BPM. Silenzia il cellulare che non ti serve a niente, a meno che non voglia fare una fotografia di noi che ci abbracciamo forte e decolliamo via. A bordo di un'astronave senza pilota che punta verso galassia a cercare vita, come nei sabati sera in provincia che sembra tutto finito, poi ricomincia. Diciamo che per lungo periodo le seconde generazioni in Italia, e questo te lo do per certo, insomma, almeno fino alla nascita della rete G2 nel 2005, venivano ignorati, diciamo, come categoria, perché si pensava molto più ai nostri genitori, no? A come disciplinare la presenza in Italia dei nostri genitori. Ed è le leggi che si sono fatte sull'argomento erano molto, sono sempre state sempre più restrittive, diciamo, no? Peggiorando la condizione della presenza dei cittadini stranieri in Italia e di conseguenza anche quella dei loro figli, quindi noi, seconde generazioni. Mentre invece in passato c'erano, questo più o meno in molti paesi, insomma, dell'Europa, soprattutto prima del 1973, la legislazione sulla cittadinanza e sulla permanenza degli stranieri sul territorio, diciamo, nazionale erano molto, molto più libere, diciamo, perché non c'era interesse particolare a disciplinare questa materia, e soprattutto perché servivano braccia, ecco, sostanzialmente. Andarsene a letto tranquilla, tu sei la bionda stasera, sono il gorilla, ti porto a vedere il mare da in cima al grattacielo, mentre i cecchini ci sparano noi prendiamo il volo a bordo di un'astronave senza pilota che punta verso galassie a cercare vita, come nei sabati sera in provincia che sembra tutto finito poi ricomincia, come in un sabato sera italiano che sembra tutto perduto poi ci rialziamo. Sabato, sabato è sempre sabato, anche di lunedì sera è sempre sabato sera, quando non si lavora è sempre sabato. Isaac, quello dello sport è un veicolo importante per l'integrazione. Noi abbiamo fatto tempo fa una puntata sul cricket, in particolare per la comunità ad esempio asiatica. Me lo confermi? Sì, sicuramente lo sport è un mezzo che da questo punto di vista ha delle potenzialità enormi, e proprio per questo, insomma, ci è sembrato un incredibile paradosso, no? Che lo sport, che dovrebbe includere il più possibile, in realtà poi al suo interno, all'interno di molte federazioni, come spiega poi anche Mauro Valeri nella sua parte, ha delle norme che tendono invece ad escludere. E allora abbiamo anche storie di tanti ragazzi che devono presentare una serie di documenti, se non hanno appunto la cittadinanza italiana, che rende spesso molto difficile per loro proseguire l'attività sportiva. Ecco che raccontiamo anche storie, insomma, numerose, no? Alla fine abbiamo raccolto 100 esperienze di atleti di seconda generazione. Sicuramente ce ne sono molte positive, ma ce ne sono tante altre, insomma, in cui questi ragazzi hanno enormi difficoltà. Ci piace anche sempre ricordare la storia, ad esempio, di un importante mezzofondista, un under 23 come Yassin Rashik, che è nato a Casablanca, è arrivato in Italia sin da piccolo e sta attendendo la cittadinanza da oramai più di 10 anni, e per motivi burocratici non arriva. E questo ragazzo, che dunque per le norme della Federazione Atletica, ed è un paradosso incredibile, è campione italiano delle sue discipline, ma allo stesso tempo non può vestire la maglia azzurra. Anche di lunedì sera è sempre sabato sera, quando non si lavora è sempre sabato, vorrei che ritornasse presto un altro lunedì. Strappa le stelle dal cielo, lascia solo i led, voglio ballare come Michael nel video di Bad, stare leggeri come due farfalle appena. Ecco che lui ci racconta anche che rifiuta anche le offerte di paesi che magari concedono passaporti con un po' più di facilità, perché vuole gareggiare per l'Italia. È ovvio che poi a un certo punto ci si trova a chiedere quanto devo aspettare, quanto, insomma, posso aspettare ancora, quanti anni sto perdendo a livello internazionale a causa, insomma, anche di queste norme. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. If I held my breath on you, I would die 1,000 times. And if chewing was to show you how much I cared, I'll probably be wearing dentures by now. Said if I held my breath on you, I would die 1,000 times. And if chewing was to show you how much I cared, I'll probably be wearing dentures by now. promises broken. Bentornati a Indovina chi viene a cena. Questa sera parliamo di sport con questo libro, Campioni d'Italia, le seconde generazioni e lo sport, e due dei suoi autori che sono Isaac Tesfai e Mohamed Taimoun. Isaac, ci stavi raccontando delle difficoltà, insomma, di alcuni campioni. La parte che tu hai curato inizia con un campione che senza dubbio, almeno a livello mediatico, è un esempio, no? Mario Balotelli. Devo dire che nel bene e nel male, nel senso che poi si parla sempre solo di Mario Balotelli. Sicuramente poi parlare di Balotelli oggi non è facile, perché lui sta attraversando veramente uno dei momenti più difficili della sua carriera. E poi diciamolo, non è una seconda generazione, ma è un ragazzo adottato, quindi insomma uno status un po' diverso. Un po' particolare, sì. Allora, la questione di Balotelli è particolare perché in realtà l'adozione vera e propria è arrivata solo dopo i 18 anni. Lui nasce in Italia da genitori ghanesi a Palermo e viene dato in affido e proprio per questo motivo lui non avrà la cittadinanza italiana fino ai 18 anni, l'adozione arriverà dopo e per questo Balotelli, ad esempio, per una questione di pochissimi giorni, questo anche per capire quanto poi la burocrazia rende complicata le cose, lui arriva a saltare le Olimpiadi di Pechino del 2008, un appuntamento imperdibile per un atleta. È ovvio che lui rappresenta un po' il simbolo di quella che è stata definita poi la generazione Balotelli, ma una cosa che comunque ci teniamo sempre a sottolineare, questo non è un lavoro su Mario Balotelli. Insomma, Mario Balotelli ha una grande importanza, sicuramente è il nome più noto, ma è una delle tante storie che abbiamo voluto raccontare, sicuramente la storia di un campione molto, anche molto mediatico, molto criticato per i suoi atteggiamenti, con una critica che talvolta però assume anche toni un po' pregiudiziali, secondo me, insomma, nei suoi confronti. Un altro campione che è stato sotto riflettori a un certo punto durante il Festival di Sanremo, quando Fabio Fazio l'ha invitato, è stato Angelo Ogbonna, no? Ci racconti qualcosa di lui? Il padre nigeriano, però è italianissimo, è nato a Cassino nell'88, insomma è stato anche al centro di questo trasferimento che ha fatto molto molto discutere, perché lui è stato, insomma, è cresciuto nelle giovanili del Torino, è stato capitano dei Granata a soli 22 anni, però anche per lui la cittadinanza è arrivata a 18 anni, poi c'è stato questo trasferimento alla Juventus che ha fatto molto discutere, però ci piace anche ricordare, insomma, alcune sue dichiarazioni. Lui in un'intervista nel 2012 giustamente disse: mi sento totalmente italiano, immagazzinato, questa cultura che mi ha cresciuto, non sono Angelo l'africano, Angelo l'italiano, Angelo l'americano, sono Angelo, insomma, questo per me rappresenta anche molto bene quello che è poi lo stato d'animo di molti di questi che stiamo ragazzi. Dicendo, infatti Mohamed, è importante, al di là dei nomi che a volte sono suonano stranieri, ricordare che questi sono ragazzi italiani, ragazzi e ragazze anche, no? Ragazzi e ragazze italiani, campioni italiani, che però, questo è il punto interrogativo, per questo c'è quel punto interrogativo nel titolo del libro, in Italia c'è questo paradosso per cui abbiamo una legge per la concessione della cittadinanza, ne esempio anche la storia di Mario Balotelli, che non coincide con la realtà dei fatti in Italia. Cioè un esercito di giovani di grandi potenzialità a cui però si nega la cittadinanza. Isaac, quali sono le storie più particolari, quelle che insomma ti hanno colpito di più? Un esempio è quella di un altro mezzofondista come Marco Naibe Salami. Lui nasce nel Mantovano da genitori immigrati e all'età di 18 anni, anche per lui per motivi burocratici, non arriva questa cittadinanza. Ecco che, avendo lasciato gli studi per fare l'atletica, per fare atletica leggera, si trova in quel momento tra gli irregolari. Per cercare, insomma, di uscire fuori da questa situazione, si trova anche costretto a lasciare momentaneamente l'attività sportiva per lavorare nelle campagne italiane, insomma, a raccogliere angurie. Queste storie, che poi fortunatamente almeno questa si è risolta bene perché lui oggi corre e è nell'esercito italiano, sono e servono anche a dimostrare che nel momento in cui noi parliamo di problemi e di limiti per questi ragazzi e della necessità di avere una legge di questo tipo, insomma non è un vezzo, diciamo, è proprio per far capire che poi queste norme si riflettono in modo decisivo, insomma, sulla vita di questi ragazzi. All I'm trying to say, darling, that you know very well that I left her for you. Guess you're doing the same old, same thing to me now. Now these days, Hennessy dries my veins as our Genesis smiles back at me. Now heresy might be a new fate. E il Coni che atteggiamento ha nei confronti di queste potenzialità, a volte che riescono a esprimersi, a volte no? Il Coni è un mondo, insomma, molto particolare e molto variegato, e quindi, insomma, l'atteggiamento è sempre un po' alterno, perché all'interno del Coni poi bisogna capire che ci sono diverse federazioni, e questo è il problema maggiore. Ogni federazione poi adotta una sua politica, e allora abbiamo federazioni più inclusive, come ad esempio la Federazione Italiana di Atletica Leggera, in cui questi ragazzi possono, se sono nati in Italia a genitori immigrati, correre tranquillamente per i campionati italiani, anche se ovviamente non possono vestire la maglia azzurra, e federazioni in cui le cose sono un po' più complicate, come appunto ad esempio il calcio, in cui questi ragazzi vengono spesso richiesti documenti, in particolare se si tratta di ragazzi che hanno cittadinanza extraeuropea, allora andarle a chiedere a federazioni magari di stati, faccio un esempio, africani, che si trovano in situazioni di grandi difficoltà, ecco che diventa molto molto complicato. E quindi in questa giungla normativa, no, che anche Mauro Valeri descrive molto bene, ci si deve muovere, insomma, con un po' di difficoltà, perché a seconda proprio dell'attività sportiva si ha poi un risultato diverso. In questo senso c'è una storia molto particolare nel libro dei fratelli Kim, John e Mina. Lei, pallavolista, ottiene la cittadinanza ad una certa età, entrambi nati in Italia. Il padre era un pallavolista sudcoreano molto molto noto, e lei ottiene la cittadinanza ad un'età con le norme della federazione del volley. Lui, il fratello, che sceglie una strada particolare, che era quella del golf, che era proprio l'hobby del padre, e la ottiene in un'altra data, in un'altra età e con altri tipi di percorsi legati alla federazione del golf, che per certi versi è un po', insomma, un po' più restrittiva. E quindi questa è proprio la dimostrazione di come ci si trovi di fronte a norme che variano da federazione a federazione. Isaac, quando si parla di razzismo, no? Tu ne citi alcune di queste storie? Sì, molte, insomma, ne abbiamo. Guarda, io Valentina volevo dire solo una cosa anche su Balotelli, perché è vero che, insomma, lui ha spesso degli atteggiamenti discutibili, ma noi dobbiamo analizzare anche il tipo di critica che si fa, e lì allora dicevo che prima anche che è un po' pregiudiziale e rischia di sfociare un po' nel razzismo. Noi abbiamo visto questo fallimentare mondiale che in Brasile, in cui Balotelli è diventato il capo espiatorio, quando in realtà sì, ha fatto un mondiale sicuramente negativo, ma non è stato tra i peggiori, ma in cui l'abbiamo visto descrivere su alcuni giornali italiani raffigurato con delle vignette in cui lui è un cannibale che cuoce nel pentolone buffone ai compagni, no? Allora, ecco che quando noi vediamo questo tipo di situazioni significa che siamo andati proprio oltre. Insomma, e tornando anche un po' alla tua domanda, è vero, abbiamo diversi casi di razzismo, e la cosa peggiore, insomma, che deve far riflettere, che spesso sicuramente ci sono i casi nel mondo del calcio che fanno discutere più di tutti, ma non è assolutamente solo non riguardano solamente ad il esempio? Calcio. Ad esempio abbiamo il caso della Wabara nel basket, ma soprattutto c'è un caso che ci diamo perché riguarda anche gli sport più nobili, come il judo. È il caso di Edwige Gwend, che tra l'altro proprio pochi giorni fa ha vinto una medaglia d'argento in un torneo molto prestigioso disputato in Giappone. E lei racconta questo episodio, insomma, lei che è arrivata piccolissima in Italia, e racconta questo episodio in cui si trovava sul tatami, e da bambina, all'età veramente anche inferiore ai 10 anni, 8 anni se non ricordo male, viene insultata con un epiteto razzista da una sua avversaria, insomma bambini veramente di pochi anni di età. A quel punto insomma lei si trova veramente spiazzata, ovviamente insomma l'avversaria finisce al tappeto, però insomma quelle sono poi ferite che, insomma, lo dice anche lei, un po' ti restano e comunque ti segnano. C'è un altro capitolo importante che riguarda le seconde generazioni e lo sport, quello del basket, no? Sì, il basket sta vedendo una crescita sempre maggiore di seconde generazioni. E è forse uno sport in cui noi potremo vedere veramente a livelli completi, insomma, un roster, una rosa azzurra con diversi ragazzi di seconda generazione a livello giovanile. Potremmo un po' ricordare quanto è accaduto anche con quell'Under 21, quando schierò un attacco tutto, insomma, Black Italians con Balotelli e Okaka. Lo stesso potrebbe accadere anche nel basket, perché abbiamo veramente diversi ragazzi che sono a Siena, come insomma Reginald Cornu, ma anche Abbas, un ragazzo del Ghana, anche Eric Lombardi, un'altra seconda generazione che ha fatto parte insomma di alcune spedizioni vincenti dell'Italia. Ci troviamo di fronte veramente a uno sport che è in crescita come tesseramenti di seconde generazioni, ma è un fenomeno che comunque insomma sta riguardando un po' come il paese reale, anche poi le diverse discipline. Mohamed, quanto tempo ci vorrà perché le cose cambino? E quel punto di domanda del vostro libro diventi un punto. Che diventi un punto. Sicuramente in generale cambierà quando cambierà la legge 91-92, grossa parte. Diciamo, quantomeno l'Italia farà pace cambiando la legge sulla cittadinanza con la sua storia, no? E con quello che è diventata nel corso dei decenni. Per lo sport questo non deve essere un alibi, lo dice perfettamente Mauro Valeri nel suo capitolo. Lo sport italiano, e per tornare anche alla domanda che facevi prima Isaac sul CONI, l'atteggiamento del CONI, sta facendo poco. Alcune federazioni stanno facendo pochissimo, come per esempio il calcio e altre. Le prese di posizioni non sono incoraggianti, potrebbero fare molto di più cambiando le regole interne, rendendo come in altri paesi insomma sanzionabili atteggiamenti razzisti, ma soprattutto permettendo alle seconde generazioni che non hanno la cittadinanza italiana di poter praticare lo sport anche professionistico in modo più completo e soprattutto come i loro coetanei. Quindi la legge per la cittadinanza non deve essere un alibi per lo sport, che invece dovrebbe essere la punta di diamante, no? Per indicare ai politici, alla società, quanto sia retrograda e discriminatoria la nostra legge sulla cittadinanza. Le varie federazioni devono fare di più. Il CONI dovrebbe fare molto, ma molto di più, per permettere a tutti noi di poter praticare lo sport liberamente. Grazie, io ringrazio Isaac Tesfai e Mohamed Tailmoun, spero di averli pronunciati bene i nomi, e anche ovviamente Mauro Valeri, che oggi non è qui ma ha firmato insieme a loro questo libro, Campioni d'Italia, punto di domanda, ma io metto il punto perché speriamo che sia così. Grazie a tutti voi per l'ascolto, ci risentiamo sabato prossimo, grazie anche ovviamente in regia, al supporto e all'aiuto di Peter Bescapè. Da Valentina Furlanetto buona serata. You've got to give a little, that's the glory of love.